Giulia. Si è capito niente, però sono veramente con una parlantina pazzesca. Ti meriti il nuovo vocale di Marco Roma, che ha spedito oggi alle... non lo so, non mi dice gli orari questo WhatsApp, non so perché. Comunque, se qualcuno vuole WhatsApparci, 333 180 94 94, come al solito state ascoltando Radio Città Fujiko 103.1 FM, e questo è Marco Roma che ci saluta così oggi. Buongiorno! Dammi qualcosa che ricorda te. Dammi qualcosa che ricorda quei momenti magici. Da Marco Roma, buongiorno! E buongiorno anche a te. Anzi, invitiamolo direttamente in diretta a venire in diretta a 50 minuti di... Anche già questo giovedì. Di ripartizione, esatto. Ma alla fine poi, scusate se vi chiedo cose che sono un po' tecniche, ma siamo riusciti poi ad avere il cabinotto su Via del Guasto, oppure cioè dove avverrà la diretta giovedì? Adesso prima professor Campagnoli. Allora, professor Campagnoli, ci spieghi che cos'è 50 minuti? Professore. Professore. No, in effetti aspetta che faccio, dico le cose come si deve. Allora, abbiamo qui con noi Daniele Campagnoli, che è l'organizzatore main event 50 minuti di riparazione, che è un programma radiofonico che si terrà su Radio Città Fujiko in diretta questo giovedì alle ore 18. E di che cosa parlerà? Giovedì abbiamo la prima diretta radiofonica con voi, tra l'altro, esatto. Giulia, e con lo stesso Stefano, perché sì, siamo un team. Ce la suoniamo, ce la cantiamo. Sono il nominato ufficialmente dalla direttrice dell'Accademia per coordinare il lavoro, ma in realtà è un lavoro di squadra, siamo tutti. Ah, certo. Siamo tutti coinvolti, e la prima diretta sarà dalla piazzetta Roberto Raviola, che è il luogo dove si terranno tutti questi incontri, laboratori. Ma perché eventi. Non l'hanno chiamata piazzetta Magnus, però? Cioè, che tutti si chiederanno: ma che cazzo nome è Roberto Raviola? Infatti, non l'abbiamo detto nella prima puntata. Esatto. Questa cosa forse la possiamo dire oggi. Esatto. Roberto Raviola, per chi non lo sapesse, è Magnus. È Magnus. Esatto. Grande artista. Il grande Magnus, che probabilmente nessuno ormai conosce più, no? Vabbè, gli ascoltatori di Radio Città Fujiko sicuramente, sì. Perché non dico che siano tutti dei gran vecchi. Beh, come Accademia abbiamo cercato dargli anche un minimo di assolutamente riconoscibilità. E giovedì però possiamo dire, c'è la diretta, laboratorio inaugura questa serie di appuntamenti in piazza. L'ho scoperto stamattina, grazie alla meravigliosa Irene Guzman che ci sta bombardando di comunicati stampa, anche perché non succede niente in città, ma in Accademia ci sono almeno 5 eventi al giorno. L'Accademia in questo periodo fa fatica ad organizzare lanci stampa, perché ogni giorno papam escono, e inaugura questo nuovo ciclo di incontri in piazza, di cui noi ne seguiremo alcuni, ma il primo coinvolgerà il biennio di fashion design, e si chiama Ritessere ad Arte, primo appuntamento dove chiunque voglia può venire, incontrare le studentesse e gli studenti, portare anche un proprio vestito. Questo, potete portare parte interattiva. Vestiti usati, esatto. Oppure vestiti che vi hanno stancato, stanno lì a fare la muffa, a prendere la polvere, oppure hanno qualche piccolo. Cosa facciamo con questi vestiti che prendono la polvere? Noi non facciamo niente, facciamo delle chiacchiere. Voi li raccontate. Ok, no, noi li raccontiamo, ma loro li ritessono. Loro li sì. Ok. Interverranno sui vestiti che le persone possono portare e daranno una nuova vita a questi abiti, sempre con il concetto riparazioni, quindi del riparare, di dare una nuova identità. Upcycling, mi hanno detto gli studenti, upcycling. Esatto. Io ho un calzino sinistro, se qualcuno vuole portare un calzino destro riusciremo a avere... decorazioni floreali, forse ti fanno fantastico. Un ricamo, che bello. No, però la cosa bella è che oltre a poter portare i propri vestiti e farli reinventare dagli studenti di fashion design, si può venire tutti nudi fantastico. E ti ricamano addosso. No, alcuni degli abitanti del quartiere dell'Accademia poi saranno tra gli che portano i vestiti ad essere reinventati, saranno fra gli indossatori di una sfilata che fa sempre parte di tutto questo progettone riparazioni, che sarà sempre in piazzetta Roberto Raviola sabato sera alle ore 21:22. Sì. E noi faremo la diretta di nuovo. Io la presento perché a me fa che la sfilata, abbiamo detto venitela a vederla in persona, perché raccontarla in diretta, ecco, esce l'abito di modello Giuditta. Esatto. Invece il giovedì è più interessante, perché ci sarà proprio il vostro banchetto che sotto il portico, appunto sopraelevato sulla piazza, ad osservare quello che avviene. E comunque a me è arrivato il comunicato stampa che dice che si replica anche alle 22:30, per cui tu speravi di andare a cena sabato. Ah no, ho sbagliato l'ora, allora c'è 21:30 con replica alle 22:30. Mi dice la meravigliosa Irene. Allora non posso andare Cusum a mangiare. Tu speravi di poter andare a mangiare, quello che riuscirai ad avere forse un piccolo erbazzone se la missi è ancora aperta. Forse, esatto. Forse. Condurre una doppia presentazione. E vabbè. Detto questo, ci siamo già annoiati abbastanza e dunque vi faccio sentire Time Has Come dall'album Brighter Days di Mystical Fair, uscito per Canti Music 2 giorni fa. Naturalmente ringraziamo il fantastico Felix di Boom Rush Promotions, che mi manda sempre dei gran pezzi reggae. Sentite un po' qua. Anche se dobbiamo fare l'allerta meteo, finalmente la radio può essere un mezzo per dirvi state a casa domani. Cioè, se per caso qualcuno di voi lavora in una scuola, in un centro sociale, oppure è uno studente universitario o dell'Accademia di Belle Arti, guarda caso, domani potete dormire all'inverosimile perché è tutto chiuso. So much to share. I hope you're ready, cause the time has come to make this world a better place. The loads are heavy, but we'll stand up strong, working towards a brighter day. I hope you're ready, cause the time has come. We can make it if we slow down the pace. No matter where you're coming from, get ready, cause the time has come. There will be no real change with only words. Let's get down to work, clean up the earth. We can do more than just a shot in the dark. Many great fires can be started by sparks. Why are we taking much more than we need? It seems like nothing satisfies man's greed. We can move mountains if we sow the right seeds. Roll up your sleeves, change the world with ease. I hope you're ready, cause the time has come to make this world a better place. The loads are heavy, but we stand up strong, working towards a brighter day. I hope you're ready, cause the time has come. We can make it if we slow down the pace. No matter where you're coming from, get ready, cause the time has come. We build a castle on sinking sand. All is about to fall. Let's get back to the land. Don't wait until the final call. No more self-destruction behavior. The stake is high. Of time. Trying to defy the rules of nature. Mankind is walking on the thin line. Why are we taking much more than we need? It seems like nothing satisfies man's greed. We can move mountains if we sow the right seeds. Roll up your sleeves, change the world with ease. I hope you're ready, cause the time has come to make this world a better place. The loads are heavy, but we'll stand up strong, working toward a brighter day. I hope you're ready, cause the time has come. We can make it if we slow down the pace. The time has come for the weather to be shit like tomorrow. Yeah. Comunque, sì, no, di quello che dicevamo è che in Accademia succede un botto di roba, tra cui appunto stamattina c'era un workshop e in contemporanea, tutto per la scuola di grafica, c'era sia un workshop che in contemporanea un'inaugurazione di una mostra di Leon Pericles, un artista australiano che, siccome facciamo coxo spaziale all'ora di cena, ha deciso di non venire in presenza, però io da bravo cagacazzo sono andato a intervistarlo e fra l'altro lui parla inglese, per cui mi è toccato pure di tradurlo anziché dormire, fare il sonnellino pisolino. Il pisolino pomeridiano. E vabbè, dai, non è che tanto, domani è festa. Ciao, sono Emily e questo è Coxo Spaziale. Grande Emily, grazie per averci ricordato che questo è Coxo Spaziale, ve lo ricordo anch'io. E comunque andiamo a ascoltare, così vi riposate due minuti. Andiamo ad ascoltarci cosa ci ha raccontato Leon di questa mostra che ha inaugurato stamattina nei corridoi dell'Accademia di Belle Arti. Questo ormai è Radio Accademia di Belle Arti di Bologna. Arte contemporanea. Ha inaugurato stamattina l'arte di Leon Pericles. Am I pronouncing it correct? That's correct, yes. Very good. Leon Pericles, Pushing Boundaries, che sarebbe superare i confini. Sono qui con lui che ci racconta qualcosa della mostra. Leon, è un piacere averti qui. Com'è essere a Bologna? How is it being in Bologna? Bologna has been very Bologna exciting. È un posto molto entusiasmante. I thought that Bologna quando had sono arrivato in Italia pensavo che Bologna avesse molti pochi edifici romantici. In realtà è pieno di edifici rinascimentali, è pieno di sculture molto entusiasmanti. Non altrettanto quanto Firenze, però comunque è un enorme patrimonio di arte fantastica e sono deliziato di poter dire di stare qui per un'altra settimana qui in Italia. Fantastico, ma raccontaci della tua arte, che cosa fai? Perché qui sei stato invitato dalla scuola di grafica, ma so che gli incisori tradizionali non piaci tanto agli incisori tradizionali perché tu attacchi delle robe sulle stampe e non si capisce bene quello che succede. E dunque tu non sei semplicemente un printmaker, giusto? E lui risponde, no, non lo sono, io dipingo e faccio anche qualche scultura e poi faccio stampe, incisioni. Faccio più o meno 50% pittura, 50% incisione, ma mi piace fare entrambe le cose. Mi piace giocare con cose che sono, che hanno a che fare con la stampa, con l'incisione tradizionale, ma non solo. Ma anche innovare, per cui appunto io uso moltissimo il collage e appunto attacco oggetti sulle mie incisioni. So che alcuni maestri di incisione non sono molto contenti con te perché tu appunto attacchi cose sulle tue stampe. Qual è stata la tua più grande influenza? Forse Robert Cornell o qualcuno del genere? Ah giusto, ci hai preso abbastanza e non solo. Ma inizialmente ero interessato alla texture e alle volte ho sentito il bisogno di utilizzare linguaggi old fashion, linguaggi vintage, come in questo caso dove ho fatto ricostruire una lattina di sardine e poi l'ho fatto in 150 copie e poi le ho attaccate ognuna nell'edizione delle stampe che ho fatto. E soprattutto mi interessava appunto il cambiamento di texture all'interno della mia incisione. Mi piace il modo in cui tu metti insieme la cultura popolare degli oggetti vintage e l'incisione tradizionale e un sacco di ironia, perché alcune di queste cose sono veramente divertenti. Grazie, ti ringrazio e mi dispiace che molte persone non possono leggere l'inglese e le cose che scrivo. C'è un sacco di testo in quello che faccio e le persone che riescono a leggere il mio inglese alle volte le vedo le vedo ridere sguaiatamente. Excellent. E per me è un grande complimento quando sento la gente ridere di quello che ho scritto. Ti ringrazio moltissimo. La mostra sta aperta fino al 31 maggio nei corridoi dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Grazie mille e venite a vederla, mi raccomando. Per quanto altro tempo sei in Italia? Noi siamo qui per un'altra settimana e mezza, andiamo a vedere Firenze, le Cinque Terre. È una cosa per noi, una cosa per me e la mia compagna, è una cosa molto entusiasmante essere in un paese che ha così tanta cultura e così tanta storia, e mentre l'Australia è un continente molto giovane e non ha niente di tutto questo. Rimane una nazione molto affascinante e ha una storia lunghissima. Una storia molto lunga anche lei, più che altro non è una storia molto occidentale. Hai ragione, fra l'altro ci sono un sacco di immigranti dalla Grecia e dall'Italia che hanno aggiunto tantissima cultura a quella che è la cultura occidentale australiana, che hanno fatto opere di edilizia e di architettura molto interessante e di altissimo livello. Grazie mille e a presto. Siete impressionati dalla mia traduzione automatica? Bravissimo. Sappiate che non lo faccio di professione, per cui non ci provate nemmeno a chiedermelo come favore di fare sta roba, anche perché io, cioè, come fra l'altro il ragazzo che traduceva oggi non trovava le parole in italiano, pur essendo italiano, cioè io ho lo stesso problema, se devo fare il contrario ci riesco, dall'italiano all'inglese, ma dall'inglese all'italiano non ci riesco. Ma tanto nessuno saprà mai se hai veramente detto quello che diceva lui, quindi non è un problema. Sì, no, ma infatti, e comunque, cioè, sicuramente comunque non l'hanno ascoltato. Comunque andatela a vedere, ma non domani, perché domani l'Accademia è chiusa, a parte un piccolo ufficetto in cui qualcuno sta lavorando. Giusto? Esatto, sì. Domani solo noi siamo lì a registrare nel nostro ufficetto, bellissimo, eh? Il nostro angolino che c'è stato. La reggia del guasto dell'Accademia di Bellezza. Esatto. Però è tutta pittata, peraltro, del colore di Radio Città Fujiko, quindi, no? Becco d'oca. Più giallino, cioè, no? Sul giallino. Becco d'oca. Si vede. Comunque siamo lì. Siamo lì domani e chi vuole venire a trovarci, esatto, sotto l'acqua. Con un ombrello. C'è il portico, può venire. Registriamo la nostra prima Ma siamo poi puntata. Così sicuri che pioverà domani. Esatto. Pensa se tutta sta allerta. Poi c'è il sole come oggi pomeriggio. Sarebbe fantastico. Comunque domani ci trovate a registrare nel pomeriggio fra le 2 e le 3, possiamo dire? 2. Esatto. Chi vuole passare? La cosa bella è che le pareti sono di vetro. Quindi ci vedrete. E voi siete tutti nudi, naturalmente. Esatto. Preparandoci per il laboratorio di ricambio. Tutto legato. Riparazioni, perfetto. È tutto molto legato. Ho capito, che bello. E poi cos'altro succede? Però, succede un sacco di roba. Sì, possiamo dire questo, che noi l'inizio. Registriamo di solito il martedì pomeriggio, per chi vuole passare, ci vuole venire a trovare, ci vuole interrompere, no, perché non gli apriamo la porta. Ma per ascoltare la puntata invece ci trovate in onda su questa medesima radio tutti i venerdì dalle 10.30 alle 11.30. Quindi sì. In realtà dalle 10.30 alle 11.20, perché sono 50 minuti. Hai ragione, però c'è la pubblicità. No, c'è la pubblicità in mezzo. Questo è il grande dubbio che tutti si sono chiesti. Esatto. 50 minuti, ma dura un'ora. 50 minuti. Saranno davvero. No, è che in realtà è che parlerai velocissima. Sempre, tutta la puntata. Tutta la puntata. È condensata. E poi ci sono 10 minuti di silenzio. E così fa 50 minuti. E quella è la parte di Leo, naturalmente. Io sono 10 minuti di silenzio in radio. Esatto. Fantastico. È il nostro equilibrio. Beh, ci vuole dopo 50 minuti di riparazioni. Però non parleremo solo noi. No, esatto. In queste dirette ci saranno, certo, anche degli studenti che chiaramente staranno con noi in diretta, parleranno e interverranno. Speravo che ne portaste qualcuno stasera, invece li abbiamo persi nel guado, esatto, si stanno preparando con la canoa. Sono già spremuti abbastanza per le preparazioni delle puntate, si sono fatti un semestre di corso e poi questi sono il gruppo eroico che continua malgrado che segue il workshop con Giulia come Leo. Malgrado, con grande gioia. Malgrado sia finito il semestre, questi insistono, vanno avanti, insomma. Li vogliamo salutare? Salutiamoli, dai. Li vogliamo abbiamo anche tutti i nomi. Dai, nominiamoli tutti quanti. Aspetta, eccoli qua. Dici tu, Leo. Dico io. Salutiamo, sicuramente sono lì che ci stanno ascoltando, fremendo per domani, prima registrazione. Diana Cava, Jacopo Cotalini, Maria Rosa Cuccitto, Daniele Di Feo, Chiara Mascellani, Neva Reali, Valeria Scardino, Camilla Sollazzo, Francesco Zanlungo. Vi aspettiamo in radio. E io le applaudo. Bravi. Che avete resistito e che hanno costruito le puntate. Poi per loro è solo l'inizio, nel senso che domani è la prima di una serie di puntate, ma andiamo avanti fino al 30 di giugno con le puntate. Ne rimarrà solo uno, vediamo chi arriva a fine giugno. Jacopo è costretto per a farsele. Senti, ma quello che voleva fare i jingle li ha poi fatti? Sì, bellissimi. Ha fatti la pubblicità, il sottofondo musicale è fatto da Daniele. Infatti, anche oggi dicevo che bello sto pezzo. Ha fatto Daniele Di Feo. Lui ha detto che non vuole assolutamente parlare, però è presente in ogni puntata in maniera cospicua, perché tutte le musiche sono molto bene. È stato un contributo fondamentale. Lo inviterò come unico ospite a Coxo Spaziale. Prossima puntata, tutta dedicata alle sigle. Il 15 agosto, io e lui da soli con 50 gradi qui dentro, e dovrà parlare. Ho capito, che bello che avete anche un musicista che vi fa i jingle. Sì, è un bel gruppo. Variopinto. Sì, molti che sono andati a caccia di persone da intervistare. Ognuno ha preso un tema, si sono lanciati proprio alla costruzione delle singole puntate. Raccontiamo un po' come sono queste puntate, lo diciamo o no? Certo. Lo vogliamo dire? Coxo spaziale. Ah no, aspetta, cavoli, no, io ho messo il jingle così a cacchio, giusto perché mi è venuto a me in mente, cioè, ho detto jingle, ho detto aspetta che ne avevo messo uno lì, poi però mi sono accorto che l'orologio da questa parte indica le 20:30, per cui è l'ora delle pubblicità delle 20:30. Allora. Eccoci qua. Ciao. Ciao. È in arrivo Napoli Monitor. Equilibri. Coxo spaziale. Questo invece è Enrico Farnedi, sempre che mi fa questo jingle abbastanza spaziale. E siamo di nuovo in diretta con Coxo Spaziale, naturalmente con i nostri fantastici ospiti Daniele Campagnoli, Giulia Quadrelli e Leo Merati. Eccoci qua, siamo noi. Di 50 minuti di riparazioni. 50-50. Vogliamo raccontare un pochino? Raccontiamo un pochino. Partiamo dall'inizio. Partiamo dall'inizio, da come è nato questo programma, che diciamo da un'idea di Cristina Francucci di inserirlo dentro questo grande progettone di 2 anni che l'Accademia ha ideato e promosso grazie ai fondi appunto del PON Metro del Comune di Bologna. Non ti ridico, eh? No, anche perché quella dicitura l'affido a Giulia quando mi sono... PON Metro 1420. Esatto. E, in 2 anni praticamente l'Accademia mette in piedi una serie di azioni di cui la nostra radio è diventato un tassello, quindi 50 minuti di riparazioni è una radio che vuole dar voce al quartiere, vuole diventare anche un punto di incontro per le persone che vivono il quartiere. E tra l'altro, oltre alla vetrina, oltre alla nostra presenza fisica in via del guasto, altra cosa che abbiamo attivato per dialogare con le persone è un'email, riparazioni@ababo.it, alla quale potete scrivere per condividere anche un pensiero, un vostro punto di vista, in particolare su dei temi che adesso vi daremo qualche anticipazione. Per reagire, insomma, sì. Discutere con noi intorno alle puntate in cui ci sentirete me e Leo con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti. Cioè ogni puntata ha una tematica. Ogni puntata ha una tematica. Ogni puntata ha una tematica. da dire, questo lo ci tengo per fare onore anche a tutta la classe, perché oltre ai baldi giovani e le balde giovani che hanno citato Giulia e Leo, il lavoro a monte è stato fatto con una intera classe, certo. Un corso di... Non lo riesco mai a dire, metodologia, no, organizzazione. organizzazione e produzione dell'arte mediale. Questo Giulia è un ancora altro non l'hanno imparato. Non abbiamo studiato. Sì, no, in effetti è un po' cattivo come titolo. Sì, è un po' aggressivo. Io ci ho messo un mesetto a ricordarmi tecniche dei procedimenti a stampa. Dai due crediti, semplicemente se riesci a dire il titolo. Realtà, quando dovevo dirlo io, ho avuto un momento di pausa. Hai letto, di la verità, che hai letto. Però. In questo ma corso, in effetti chi è che mette i titoli ai corsi dell'Accademia? Perché c'è un po' di perversione qua, sì, devo dire. Sì. In questo corso, oltre al gruppo che condurrà le puntate, in realtà ci sono in totale una trentina di studentesse e studenti che hanno lavorato proprio studiando il quartiere, quindi facendo delle passeggiate, indagando, incontrando le persone e individuando queste... cinque tematiche che poi sono diventate cinque fili, esatto, conduttori intorno sempre un po' al tema del riparare, quindi le identità del quartiere sono un po' emerse da questa mappatura che abbiamo fatto, che ci ha aiutato poi a capire chi intervistare, quali luoghi del quartiere andare a raccontare Sì, perché forse possiamo dire che tutto il progettone riparazioni è un po' una risposta creativa che l'Accademia ha deciso di dare nei confronti del quartiere che la ospita, che è un quartiere vissutissimo dei studenti dell'Accademia, dell'università, con un sacco di facce, un sacco di eventi, che però come controparte ha anche diverse problematiche. È un quartiere, per chi conosce Bologna, che è molto complesso, sì, dove convivono realtà molto diverse, delle grosse fragilità, delle grosse complessità, e quindi istituzioni importanti con contesti e luoghi più di degrado e di marginalità, e quindi Riparazioni vuole in qualche modo intervenire per con tante azioni per riqualificare e, diciamo, portare arte e cultura all'interno di luoghi, nelle piazze del quotidiano, del quartiere, nel nostro caso anche in una forma più astratta che è quella radiofonica, quindi arrivare direttamente nelle case delle persone per raccontare quello che si fa con il progetto Riparazioni, e anche queste tematiche che lascerei a Giulia, visto che poi Giulia e Leo nel workshop le abbiamo individuate, ma poi hanno loro puntellato le varie puntate di interventi, contributi di persone. Sì, a un certo punto, alla fine del corso di Daniele, di cui non riesco a dire il nome, quindi non lo dico, siamo arrivati noi, che siamo stati chiamati dall'Accademia perché di lavoro facciamo un po' i narratori di questa città. Di Narrando Boni, perché noi siamo venuti anche qua. Infatti. Facciamo parte di un progetto che si chiama Narrando Bo, che proprio ha, attraverso lo strumento di solito dello spettacolo dal vivo, del teatro, delle arti performative in generale, l'obiettivo di narrare la città. Quindi siamo stati precettati dall'Accademia un po' per narrare tutto il progetto di Riparazioni, fare un po' da megafono nella città, nel quartiere, e un po' anche per lavorare con i ragazzi nella costruzione di queste puntate e giocare un po' insieme a loro a dare voce al quartiere in tanti modi attraverso questi 5/6 filoni che dalla loro indagine fatta durante il corso di Daniele hanno fatto emergere un po' quelle che sono le tematiche più salienti che coinvolgono il quartiere dell'Accademia, che sono, dico io, dici quali, tu? Quali sono? Due ore che parliamo di queste tematiche, diciamone. Altissime. Una che in questi giorni è proprio fondamentale è abitare. Quindi che cos'è per te casa in relazione al che è già una tematica molto complessa soprattutto per gli studenti universitari bolognesi. Esatto. E quindi partiamo così in pompa magna. Poi avremo ricordare. Che memorie hai del quartiere dell'Accademia? Che memorie hai? Questo è un po' il sottotitolo, ma in realtà andremo a scoprire attraverso la voce anche di personaggi che lo vivono, lo hanno vissuto, quali sono momenti di ricordi, ma anche proprio di eventi storici legati al quartiere dell'Accademia, che è un quartiere in cui i ricordi e la storia proprio ne determinano l'identità. Poi custodire. Di che cosa ti prendi cura? Questa è una puntata, dato che comunque tutto parte dall'Accademia, che comunque è un'istituzione in cui si studia tantissimo, ci si prepara anche a valorizzare patrimonio artistico, sono andati ragazzi a indagare quelle che sono le realtà del quartiere che si occupano in maniera più formale ma anche più informale di custodire, presentare arte, conservare e prendersi cura di beni, di arte, di cultura. E anche in questo caso scopriremo un po' voci, testimonianze, luoghi, tutti dedicati alla tematica del custodire. Poi? Conoscere quartiere dell'Accademia dell'Università, quali saperi e passioni vengono coltivate nelle, diciamo, nel quadrilatero o trilatero, triangolo, come lo chiamiamo? Triangolo dell'Università, via Belle Arti, via Zamboni, piazza Ravioli. Arti e scienze che si incontrano, perché l'ultima, esatto, la penultima, diciamo, è incontrarsi di tematica. E quindi parleremo un po' di quelli che sono i luoghi di ritrovo, di incontro, un quartiere dove effettivamente ogni tre metri comunque ci sono. Succede qualcosa, baretti, copisterie, piazzette, cioè durante la giornata ci si incontra, ci si L'altro scontra, giorno c'è un campo racconta. Da basket davanti, vero, alla Pinacoteca, non so, sì, bene perché. Dove ci sarà la sfilata, c'è l'altro sempre giorno. Sempre la nostra piazzetta che prende vita in forme completamente diverse da laboratorio. E poi l'ultimo, riparare, però diciamo che ne abbiamo già parlato abbastanza di, esatto, della riparazione. Un puntatone finale, un po' una chiusa, un grande summarize, come si sum up, si può dire? Una grandissima puntata dove fra l'altro avremo come protagonista un personaggio interessante che ci ha, abbiamo un personaggio interessante che ci accompagna in tutte le puntate, nato dal genio e dalla follia di uno dei nostri studenti. Ok. Abbiamo dato comunque spazio alla loro creatività, forma alle di loro creatività. Del resto sono studenti dell'Accademia, voglio dire. Esatto. Se non sono creativi loro, chi lo sarà? L'angolo della menzione. Ve l'ho buttata qua in mezzo perché, a parte un evento di domani, il resto sono tutte cose di riparazioni. un monopolio di Radio Città Fugito. Ma domani, tempo permettendo, martedì 16 maggio alle 19:30, in occasione del finissage della mostra Emergere di Livia Ribichini e Giorgia Herrera, che si inserisce all'interno della collettiva decentralizzata ideata dal magazine, adiacenze presenta il progetto editoriale A Priori. Oggi alla sua seconda edizione, la rivista diretta da Simone Bacco nasce con l'obiettivo di instaurare un canale di comunicazione stabile tra gli artisti emergenti delle AFAM, Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, ISIA, e le istituzioni d'arte locali, grazie al sostegno della consulta studentesca e dell'Accademia di Belle Arti di Roma stavolta. Questo è ad adiacenza in vicolo Spirito Santo 1B a Bologna. Dopodiché cosa succede? Che giovedì 18 maggio, appunto dalle 16 alle 20, abbiamo il laboratorio di fashion design, Ritessere ad Arte, durante il quale le studentesse e gli studenti, qualcosa mi dice che questo l'hai scritto tu, coinvolti interverranno con ago e filo sugli indumenti portati direttamente dal pubblico. Io sono così vecchio che non riesco mai a ricordarmi di fare questa cosa e dire studentesse e studenti, niente. Professor Campagnoli. Il professor Campagnoli è veramente un uomo di tutto d'un pezzo. E invece io sono un vecchio boomer. La riparazione in senso resiliente è sia reale che metaforica, assumerà forme e motivi floreali ispirati al kintsugi, a simboleggiare la rinascita. I colori e l'intreccio di fili e tessuti stabiliranno un legame con il quartiere e i suoi abitanti, che al termine del laboratorio potranno portare con sé gli abiti riparati. Poi c'è anche scritto che il workshop giustamente sarà raccontato in diretta radiofonica e sulla trasmissione 50 minuti di riparazione, ma questo penso che lo sappiamo già. L'attività però, lo dobbiamo dire, che è a cura della dottoressa, professoressa Elisabetta Zanelli, che salutiamo, e realizzata insieme ai bienni di fashion design e di didattica dell'arte e mediazione culturale del patrimonio artistico. Questo naturalmente succede in piazza Raviola. Sì. Poi, sabato 20 maggio, ma guarda cosa succede, alle 21:30 con replica alle 22:30, piazza Raviola e piazza Puntoni, che non ho capito dove finisce una, dove comincia l'altra, ma fingo indifferente. Si inglobano a questo sì, punto. Esatto. Sì. Saranno scenario della sfilata Crossing Threads, in cui le studentesse e gli studenti del biennio di fashion design proporranno al pubblico un'indagine sulle sfumature del rapporto tra moda e potere, che è molto interessante. secondo la dicotomia ordine e disordine. Abiti sartoriali e tagli netti si contrapporranno ad abiti trasgressivi e innovatori. Il titolo della sfilata è liberamente ispirato alla performance Legarsi alla montagna di Maria Lae del 1981, a cui partecipò l'intera comunità di Ulassai, avvolgendo il paese con un lungo nastro simbolo di unione e rinascita. Quattro abitanti del quartiere sfileranno inoltre con l'abito riparato durante il workshop del 18 maggio. A fare da sfondo alla sfilata, un video realizzato durante il corso di tecniche performative verrà proiettato sugli edifici che affacciano sulla piazza. La serata sarà presentata da niente po' di meno che Giulia Quadrelli. Altro monopolio, onnipresente. E vedrà la partecipazione di Aurier Maglia per l'air styling. L'evento, posso venire a farmi tagliare i capelli? Io punto quello, ho detto di sì per presentare, esatto. Solo perché mi voglio far acconciare da Aurea Balliano. Fantastico, l'evento è a cura sempre della professoressa Betty Zanelli con la collaborazione di Elisa Maola o Maola, chi lo sa? Questo lo scopriremo. E con il Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, il Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte, Verni, Fotografia e Scenografia e Allestimenti degli Spazi Espositivi e Museali. Lo sa fare bene anche Stefano. E così basta. Dopodiché il nuovo disco di Il Silenzio delle Vergini è uscito e si chiama La Chiave di Berenice, è uscito per i Dischi del Minollo. Adesso ve ne faccio sentire un pezzettino, perché altrimenti la gente cambia canale, perché non c'è mai abbastanza musica qua. Eccolo qua. Poi se vi annoiate me lo dite che lo abbasso. Direbbe mio nonno, non è neanche il diavolo sto pezzo. Vabbè, perché non ti sento? Ah, perché ti eri abbassata. Scusa. Ho detto che è bello. È bello, c'è infatti. Non riesco sì, a ricordarmi il nome del gruppo. Ma... Il nome del gruppo è Il Silenzio delle Vergini, ecco. E il disco si intitola La Chiave di Berenice. E questa era Berenice. Si dice Berenice, non si dice Berenice, vero? Berenice. Siamo sicuri. Okay. No, mi è venuto il dubbio, in effetti. Perché io sono bravo a fare questi castroni alle volte. Amore mio, amore mio. Comunque, ricapitolando, la prima puntata sarà la prima puntata ufficiale sarà questo giovedì, con la diretta. Giovedì. Poi andremo in onda quel la puntata numero 0 era quella di venerdì scorso. Zero. Esatto. 1 sì. 2 la 2 la sarà venerdì alle 10:30. Venerdì alle 10:30. Ok. Perfetto. Se uno vuole il quadro completo di tutte le puntate, basta che vada su ababo.it, naturalmente. ababo.it. E se volete scrivere, naturalmente, riparazioni@ababo.it. E se invece volete scrivere a Coxo Spaziale, coxospaziale@gmail.com. E invece, se volete mandare un vocale come Marco Roma, 333 180 94 94, ma se lo fate in questo momento ve lo farà sentire Panta 80, il fantastico programma che ci segue, perché qui ormai no, in realtà qua dice i 51, qua dice i 52, qua dice i 54, ma in realtà due cose le possiamo ancora dire, se vogliamo. Qualcosa ci sta ancora. Ci sta ancora. Cosa vogliamo raccontarci? Beh, intanto possiamo ringraziare Radio Città Fujiko per l'ospitalità. Io posso dire prego in questo caso. Esatto. Ma in particolare anche Stefano. Sì, anche per Stefano. È stato divertente un po' l'incastro iniziale della nascita di questo programma, perché parlando proprio con Stefano da neocolleghi, perché ci siamo conosciuti in accademia, in realtà è stato proprio sei stato proprio tu, Stefano, che hai detto: ma perché non facciamo con Radio Città Fujiko? Narrando boh, no, perché io tendo a essere piuttosto pratico, e dunque ma è stato un il pensiero di inventarsi una web radio e farla indipendentemente. Sì, è stata una gran proposta in realtà, perché alla fine è anche bello che le cose si sono intrecciate, incastrate. Penso anche per il progetto Riparazione in sé, le intenzioni coinvolgere sia Narrando Bo come portavoce del raccontare la città, Radio Città Fujiko, che comunque ha uno sguardo sempre sulla città, una storia. E tutto questo, secondo me, rende questa provincia un po' meno provinciale. Sì. Una volta tanto. Ci si intreccia . E devo anche dire che nel corso degli ultimi, lavorando anche nelle puntate, è stata una collaborazione molto proficua. Tant'è che ho pensato in modo malzano di portarla avanti. Non smettere più. Ma vedremo. Per adesso, no, perché tra l'altro devi sapere che Piazza Puntoni, cioè quell'angolo di mondo lì, ha delle energie un po' strane, perché io ho cominciato a fare radio dentro ad Aelia Media, che era un progetto che era stato studiato per Piazza Puntoni, perché ancora a quel tempo mi sa che la piazzetta non si chiamava ancora. No, è stata inaugurata dopo. Perché stiamo parlando di 10 anni fa, era il 2013. Sì. Quindi è un ritorno alle origini, che si chiude. Sì, infatti. E mi ricordo una puntata in cui io facevo la diretta, ma dicevo delle puttanate così a cazzo, perché così non avevo neanche. Cioè, mi piaceva fare radio, però non avevo una struttura, per cui invitavo così amici a quello che faremo poi. Esatto. cioè quello che continuo a fare. Un giorno invece mi è passato davanti Adriano Baciglieri, ex direttore dell'Accademia, che appunto a cui ero molto affezionato. Allora l'ho tirato per la giacca e l'ho trascinato dentro una puntata di Aelia Media, che è ancora scaricabile su archive.org. Pazzesco. Wow. Per cui attenzione, perché può darsi che non smettiate mai più di fare queste cose. Ce lo auguriamo. A me piace tantissimo fare radio, altrimenti Coxo Spaziale non sarebbe ancora qui dopo 10 anni. Possiamo però anche ringraziare anticipatamente, salutare e ringraziare tutte le persone del quartiere che insomma, dopo essere state scovate dalle studentesse, dagli studenti del corso di Daniele e del nostro laboratorio, che poi ha dato vita alla trasmissione che sentirete da questa settimana in poi, si sono rese disponibili per raccontarci il loro punto di vista sul quartiere, chi ci ha aperto la sua porta di casa, chi ci ha ospitato in musei, gallerie, chi ci ha parlato del bar in cui lavora, chi ci ha parlato del negozio in cui lavora, sempre tutto nel quartiere, chi ci racconterà magari la puntatona tutta sulla Miss, ce l'abbiamo? Ci stiamo lavorando. Però ecco, senza facciamo di loro non sarebbe stato facciamo possibile. Facciamo una pubblicità non pubblicitaria. Andate tutti a prendere lo spritz al bar 48 in via Beleati 48, perché la Missy è veramente il punto fondamentale dell'Accademia di Belle Arti. Centro nevralgico. Molto bene. Io vi ringrazio tantissimo. Il nostro tempo, ahimè, è finito, e come al solito ci salutiamo con le parole del nostro fantastico tecnico, ovvero il direttore, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. La sigla, Flauto, è fantastica ed è di Riccardo Lolli, che potete ascoltare ogni giovedì alle 23 su Radio Città Fujinko. Ti salutiamo. Salutiamo i fantastici Daniele Campagnoli, Giulia Quadrelli e Leo Merati di 50 minuti di riparazione. E ci sentiamo dal vivo giovedì. Questo giovedì. Su queste frequenze. Grazie a voi. Ciao, ciao. Il giorno dopo devo farmi presto per essere più molesto, perché mi alzo presto, sono autoalimentato, ho attivato il moto perpetuo. Non vengo, non esco, non ci vengo, tu insisti, non vengo, non esco, che ci venga con insegna, non vengo, non farlo, non lo faccio. Naturalmente Coxo Spaziale torna lunedì prossimo, sempre dalle 20 alle 21, sempre con Stefano W. Pasquini, che sarei io. Anzi, lunedì prossimo c'è anche Mia da Schio su PA, che salutiamo. E anzi, la settimana prossima ci saranno ospiti fantastici, per cui non mancate, ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao ciao. Sopra e 20 sotto, ho aggiustato il superotto, ho problemi a andare fuori, la notte sento i rumori, rumore bianco nel nero sparisce.